Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Questi non sono boxer, i miei invece sono boxer. Che differenza fa? Sono questi sono NS32. NS32. Sui miei boxer invece c'è scritto il mio nome, Raymond. Va bene, d'accordo. Appena troviamo un negozio, compriamo un paio di boxer. Certo, io compro i miei boxer da Kmart a Cincinnati. Noi non torniamo a Cincinnati, Ray. Cerca di smettere. 400 Oak Street. Non torniamo a Cincinnati. Non c'è bisogno di andare a Cincinnati per comprare i boxer. Si trova in Oak Burnett a Cincinnati. Ray, non hai sentito che cosa ho detto, cazzo? Falla finita! Quello che avete appena sentito è un estratto da The Rain Man, il bellissimo film del 1988 con Dustin Hoffman e Tom Cruise, un film che ha quasi 30 anni, però che è ancora attualissimo. È un film che ha vinto 4 Oscar, tra cui quello per il miglior attore protagonista, Dustin Hoffman, che interpretava Raymond, un uomo affetto da autismo, ma anche dotato di incredibili capacità mnemoniche e di calcolo. E nei titoli di coda, quasi alla fine, nella lista dei ringraziamenti, c'è anche un nome: Kim Peek. Un nome che probabilmente non vi dice nulla. In realtà Kim Peek è il vero Rain Man, è l'uomo che ha ispirato il personaggio di Raymond, ed è la sua la storia che oggi vi voglio raccontare. And the Oscar goes to Dustin Hoffman for Rain Man. Thank you very much. I'm very honored, and I thank the Academy for your support. And I just want to thank all the people I talked to, and their families, and the doctors, and all their help, and particularly Kim Peek, who was the first inspiration of the film. E Dustin Hoffman, quando va a prendersi la statuetta, ringrazia proprio lui, Kim Peek, lo definisce la fonte di ispirazione del film. Rain Man ha avuto un successo enorme, ma soprattutto è uno dei primi film che ha dato una lettura umana della disabilità senza buonismi, andando a scavare nei problemi, e nello specifico Rain Man parla dell'autismo. E forse noi possiamo leggere l'uscita di Raymond Babbitt, cioè Rain Man, l'uscita dall'istituto nel quale è stato rinchiuso per decenni, come un'uscita metaforica dal silenzio e dall'oblio in cui migliaia di persone sono costrette a causa della loro disabilità. È una specie di vita parallela, quella che scorre poco ascoltata, ignorata, con poche persone che si prendono a cuore i più deboli, perché uno dei problemi di questo mondo è che quando perdi contatto col gruppo di testa nessuno ti aspetta. Però il film racconta anche un'altra cosa importante, è la nascita graduale di una relazione tra Raymond e Charlie. Charlie è il fratello giovane, Tom Cruise, quello un po' cinico, un po' arrivista, che vede come un impiccio questo fratello di cui non sapeva l'esistenza e del quale lui si deve occupare. Bene, due personalità opposte che col tempo impareranno a conoscersi, a stabilire anche un legame, perché la relazione e l'affetto sono una delle cure migliori, forse la migliore, per ogni genere di malattia fisica e mentale. Solo la relazione può aiutare a superare una disabilità o guardare nel cuore del disabile, insomma, per scoprirne l'umanità. Ci sono tante cose dentro di me che non potete neanche immaginare. E la nostra storia contiene molte similitudini col film, intanto perché il film è proprio ispirato al nostro personaggio, ma anche perché la realizzazione del film ha segnato un punto di svolta proprio per Kim Peek, il protagonista vero, insomma, e il suo colpo d'ala è stato proprio quello. Kim Peek era un uomo che aveva incredibili capacità mnemoniche, era capace di imparare a memoria 12.000 libri, però non era capace di infilarsi la giacca, non sapeva prendere un autobus da solo, era timido, era introverso a causa delle sue difficoltà, e lui aveva trascorso la prima parte della sua esistenza vivendo da solo con il padre Fran. Però l'incontro con lo sceneggiatore Barry Morrow e poi con Dustin Hoffman lo ha spinto a confrontarsi col mondo, a sentirsi più a suo agio con la gente, a condividere le sue incredibili qualità. Sentite quello che ci racconta il padre di Kim. Dustin Hoffman. Dustin mi disse, devi promettermi una cosa. Promettimi che farai conoscere questo ragazzo a tutto il mondo. Share him with the world. In realtà Kim Peek non era autistico, aveva una serie di anormalità del cervello che in qualche modo hanno creato le condizioni per le sue capacità straordinarie, e lui è stato a lungo oggetto degli studi di medici, di scienziati, e, però insomma, per capire bisogna partire dall'inizio, dalla sua nascita. Lui nasce l'11 novembre del 51 a Salt Lake City e, come la maggior parte della popolazione di quella zona, è di famiglia mormone, e intanto, appena nato, i medici si accorgono che c'è qualcosa che non va. Il bambino è macrocefalo. Dopo qualche mese inizia a rivelare altri disturbi, disturbi motori, disturbi mentali, e i coniugi Peek decidono allora di prendere un appuntamento con uno specialista. A 9 mesi lo portammo da un neurologo per farlo esaminare. Il neurologo era in ritardo per andare a giocare a golf. Ci diede solo 5 minuti per parlare insieme. Ci disse: ho letto la storia medica del bambino ed è ovvio che è gravemente ritardato. Non sarà mai capace di imparare, di camminare. Dovreste metterlo in un istituto e lasciarcelo. E quindi questo neurologo, che pur di andare a golf fa questa visita e questa diagnosi affrettata, atroce, decide la vita in 5 minuti secondo lui, e così da questa prima diagnosi continuano a basarsi insomma le indicazioni future. Così a 6 anni Kim viene classificato come ritardato, sia fisicamente, perché non è in grado di compiere una serie di compiti quotidiani, sia mentalmente, perché in un test di intelligenza raggiunge gli 86 punti, 87, quindi al di sotto della normalità. I genitori decidono di mandarlo lo stesso a scuola. Dopo 7 minuti dall'inizio del primo giorno viene sospeso per la sua tendenza a parlare e a muoversi incessantemente, e i medici consigliano di praticargli una lobotomia per eliminare ogni disturbo. Per tutta risposta, Kim impara a memoria l'intera Bibbia, e non solo quella. Quando divenne abbastanza forte da prendere i volumi dell'enciclopedia dagli scaffali in salotto, ci rendemmo conto che li leggeva e li memorizzava dal primo all'ultimo volume. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando Kim Peek, un uomo, un ragazzo veramente particolare, con delle caratteristiche uniche dovute a una condizione del suo cervello che in medicina si definisce agenesia del corpo calloso, cioè la totale mancanza di quella parte del cervello che collega i due emisferi tra loro. Un medico che ha preso in esame Kim Peek, non certo il primo medico, quello cinico che consigliò ai genitori di mandarlo in un istituto e lasciarcelo, ma un medico serio, ci spiega più dettagliatamente la situazione di partenza di Kim. Kim Peek ha un'interessante anomalia del cervello, nel senso che gli manca la connessione fra i due emisferi, quello che in un cervello normale viene chiamato il corpo calloso. Nel cervello di Kim Peek, invece, questa parte del cervello è completamente assente. E i medici avanzano l'ipotesi che proprio la mancanza di queste connessioni abbia reso possibile ai neuroni di creare delle connessioni inusuali tra loro, dando luogo alle incredibili performance di Kim. Però, nonostante questo, i medici di allora, stiamo parlando della fine degli anni 50, non hanno la sensibilità di cercare di comprendere chi sia davvero Kim, quali siano le sue potenzialità, e come spesso succede di fronte alla disabilità, le reazioni più comuni sono quelle di escludere la persona disabile dal mondo dei normodotati. Ed è proprio quello che il padre di Kim non vuole. Il vero eroe di questa storia, probabilmente, è proprio questo padre e la sua dedizione al figlio. È una scelta difficile. D'altro canto c'è la consapevolezza che di fronte a un figlio così particolare non bastano pareri dei medici e di quelli che consigliano solo di abbandonare il bambino in un istituto. A volte è una vera sfida. Mi devo occupare della maggior parte delle sue esigenze fisiche. A volte mi spazientisco con lui quando si impunta. Le cose diventano difficili in questi casi. Si arrabbia, si irrigidisce e mi urla contro. Fran, il padre, non nasconde la realtà, perché oltre alla macrocefalia Kim ha anche danni al cervelletto che generano una serie di disturbi motori collaterali. Non riesce a bottonarsi la camicia da solo, a lavarsi i denti, a farsi la barba, cammina con difficoltà, però grazie all'aiuto del padre questo non gli impedisce di vivere una vita tutto sommato quasi normale. Anche da piccolo, quando viene espulso dalla scuola, Fran decide di dare comunque un'istruzione al figlio e chiama due insegnanti che vanno a dargli lezione a casa. Lui e il padre si impegna a fondo per garantire una vita il più possibile serena a questo bambino così complicato. Forse sarà la conseguenza di una religione come quella mormone, che avrà molti limiti, però una religione per la quale la famiglia è un vincolo fortissimo e la responsabilità nei confronti dei figli è assoluta. La maggior parte dei genitori di ragazzi con disabilità hanno la sensazione che la loro agenda sia fatta di giornate di 30 ore e di settimane di 10 giorni. E col passare del tempo Fran si accorge dell'incredibile velocità con cui suo figlio legge i libri. Ogni volta che finiva di leggere qualcosa, girava il libro a testa in giù. Così il salotto era pieno di libri a testa in giù, anche 20 o 30 al giorno. 20-30 libri al giorno, più di quello che un italiano medio legge in tutta la sua vita. E una delle ragioni della velocità con cui Kim legge i libri è proprio dovuta alla sua disabilità. La mancanza del corpo calloso, delle connessioni tra i due emisferi, lo abbiamo già detto. Lui questa mancanza la sfrutta a suo vantaggio, perché può utilizzare gli occhi in maniera autonoma. Con l'occhio destro legge la pagina di destra e con quello di sinistra la pagina di sinistra. Questo gli permette di finire di leggere un libro in un'ora, ricordandone circa il 95% del contenuto a memoria. Inutile dire che la biblioteca di Salt Lake City diventa il suo luogo preferito. Per anni, tutti i giorni, il padre lo accompagna in questo enorme edificio e lui trascorre lì l'intera giornata. A differenza di alcuni ragazzi autistici dotati in un campo specifico, in genere la matematica, lui si interessa di tutto e sa tutto. Il dottor Treffer, che è uno dei massimi esperti della sindrome del Savant, definisce Kim in maniera molto particolare. Kim's memory is not only... La memoria di Kim non solo è profonda, ma anche vasta. E questa è una cosa abbastanza unica nel mondo dei savant, perché lui è in grado di improvvisare, di mettere insieme dei pezzi di informazione, non solo di ricordare. È diventato una specie di Google vivente. Eh sì, perché Kim non ricorda a pappagallo le cose, ma le connette tra di loro, e questo è il valore aggiunto. Lui diventa un accumulatore di informazioni di ogni genere. Pensate che sempre quel dottore di cui abbiamo parlato all'inizio aveva consigliato di lobotomizzarlo. I genitori, peraltro, avevano ricevuto una prognosi terribile, decisamente infausta, proprio da quei dottori. Dicevano che non sarei arrivato ai 14 anni e invece eccomi qui. Ho 54 anni e sono anche una celebrità. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Kim Peek, l'uomo, il ragazzo che ha ispirato Rain Man, un ragazzo diagnosticato come ritardato mentale grave, che ha un cervello con delle gravissime anomalie, totalmente incapace di prendersi cura di se stesso, però con un cervello che gli fa memorizzare, non so, l'opera completa di Shakespeare, le partiture musicali, i codici postali di ogni paese degli Stati Uniti. Uno che chiede la data di nascita alle persone e immediatamente dice in che giorno della settimana cadeva. E uno che a 14 anni completa sì gli studi liceali, ma ha un diploma negato perché nel frattempo le istituzioni ancora non capiscono. Uno che a 18 anni tiene la contabilità di un'azienda di 160 persone svolgendo il lavoro in poche ore, che quando viene licenziato viene sostituito da due impiegati e da un computer. Insomma, colpi d'ala e cadute terribili determinate da questo stranissimo cervello. E poi c'è Fran, questo padre che combatte al fianco di Kim, e per combattere questa battaglia va in giro, incontra Barry Morrow, che è uno sceneggiatore, tenete a mente questo nome. Lui ha già realizzato un documentario su un altro ragazzo disabile, e qui il padre Fran inizia a parlare con Barry Morrow, lo sceneggiatore. Ero esterrefatto che potesse esistere un essere umano come lui. Fino ad allora non avevo mai sentito parlare dei savant. Non riuscivo a togliermi dalla testa l'immagine di questo uomo, di questo personaggio. Il mio piano diventò quello di creare un film nel quale Kim Peek potesse diventare il protagonista. E così, mentre Kim trascorre i pomeriggi davanti a Morrow, sciorinando codici postali degli stati, brani a memoria di Shakespeare, Morrow chiede subito al padre di poter conoscere meglio la storia di questo bambino. Bene, il padre si rifiuta di parlargli perché ha una legittima paura, quella di far diventare il figlio un fenomeno da baraccone. Ma Morrow non demorde. Dopo due anni chiama Fran dicendogli di aver scritto un soggetto per un film, e il protagonista è basato proprio su Kim. Chiamai Fran e gli raccontai del mio piano di realizzare un film in cui Kim avrebbe potuto essere il personaggio principale. Dissi a Fran: quello che hai tu è qualcosa che non esiste nel mondo, e secondo me devi condividerlo con me in modo che io possa condividerlo con il mondo, con questa storia. E il padre comincia a capire che la sua battaglia può passare anche da strade come quella, e intanto appare in scena Dustin Hoffman, che viene scelto per interpretare l'uomo autistico, insomma il Kim del cinema. E lui, nel più puro metodo Stanislavski, comincia a parlare, a gesticolare, a camminare come Kim, perché lo segue passo passo. Kim viene segnato da questa esperienza, perché per la prima volta lui non è quello strano che viene scansato da tutti, ci sono persone interessate a lui, lo sceneggiatore Barry Morrow, che gli rimane amico, che gli regala la statuetta dell'Oscar conquistato per il miglior soggetto originale. Insomma, da allora per 21 anni Kim gli è grato, porta con sé la statuetta ovunque. Si calcola che questa statuetta sia stata toccata da almeno 2 milioni di persone. Barry mi ha influenzato più di qualsiasi altra persona al mondo, perché mi ha fatto diventare Rain Man. È ovvio che la particolarità di Kim è tale che a volte forse si può pensare che venga trattato un po' come un freak a cui fare le domande, come fosse una specie di jukebox della memoria, ma non è solo quello. Dal momento in cui lui diventa Rain Man, sente di poter affrontare diversamente la gente. Fino a quando Rain Man non è stato realizzato, non riuscivo a guardare nessuno negli occhi. E il figlio comincia a diventare famoso in un certo senso, e quindi anche le capacità relazionali cominciano a migliorare, e diventa quasi socievole, a volte perfino spiritoso, fa battute, capisce l'umorismo. Fran ha capito quanto è importante per il figlio sentirsi e vivere un po' come una celebrità. Lo porta in giro per il mondo non per prendere soldi, perché non vuole sfruttare le sue doti, ma per fargli vedere un mondo diverso. Vanno a Oxford, dove Kim stupisce tutti per le sue conoscenze e per le sue capacità che lo distinguono da tutti gli altri savant, tanto che per lui viene coniata la definizione di mega savant. A Kim si interessa naturalmente anche il mondo scientifico, viene invitato per esempio dall'Università della California, dove viene studiato, scannerizzato, testato, mappato dalla testa ai piedi in un programma che viene condiviso con la NASA. Sono studi importanti sia per capire il funzionamento del cervello, soprattutto in questo caso, cioè in assenza del corpo calloso, no? L'abbiamo detto, la parte che unisce i due emisferi, ma anche per rendersi conto che i normali test test di intelligenza hanno dei limiti e tant'è vero che con lui non funzionano. Spesso le persone con talenti o capacità particolari non vengono riconosciute perché quelle capacità particolari non risultano nei test. E a meno che non ci sia qualcuno che li osservi attentamente in situazioni normali, può accadere che queste capacità non vengano mai scoperte. E una volta conclusi i test, le conferenze in giro per gli Stati Uniti, lui torna sempre nella casa che divide col padre a Salt Lake City. Qui è il suo vero riferimento affettivo, il suo luogo dell'amore e il centro della sua vera esistenza. My dad and I share the same shadow. E questa è una frase commovente. Io e mio padre dividiamo la stessa ombra. È incredibile pensare, insomma, a quest'uomo che con pazienza, con amore infinito, ha seguito per decenni il figlio combattendo con lui. E insomma, è evidente che in questi casi il valore aggiunto non può essere che quello del genitore. A questo proposito vorrei intervistare un altro padre, un grande uomo e giornalista, ma che ha scritto una storia particolare che si chiama Una notte ho sognato che parlavi, e il padre di cui parliamo è Gianluca Nicoletti, papà di Tommy, ragazzo particolare che lui definisce TEP autistico, poi ci spiegherà perché. Gianluca, intanto buongiorno e grazie di averci. Ciao, buongiorno. Io non sono grande, mio figlio è il doppio di me, per questo. E la sua ombra mi sovrasta. Senti, noi, come sai, stiamo raccontando la storia di Kim Peek. Tu sei uno che si è battuto, che ha portato alla luce il problema dell'abbandono dei ragazzi e tutte queste difficoltà. Perché in questo mondo il peso ricade sempre solo sui genitori? Beh, vedi, quella è una storia esemplare. Noi genitori di autistici veri, tosti, anche gli autistici che non parlano, che sbattono la testa sul muro, che sono anche in condizioni molto peggiori rispetto al protagonista di Rain Man, lo vediamo da una parte come l'esempio che, ahimè, più ci rappresenta, e dall'altra parte siamo contenti che ci rappresenti, perché in fondo dimostra che il peso di una persona autistica, anche se lui sta in un istituto fantastico, in Italia ce li sogniamo, sembra un grande albergo dove lo accompagna il fratello, che la famiglia rimane in realtà il depositario del testimone della felicità, della serenità, della dignità di una persona autistica. Ho detto che lo vediamo con un limite perché ancora in Italia, adesso un po' meno perché abbiamo diffuso un pochino più di cultura, certo. Quando dicevi c'è un figlio autistico ti chiedevano: ma è vero che impara a memoria l'elenco del telefono? Quella è... L'autismo è uno spettro vasto, certo. Si va da un punto zero, che è un ragazzo che non parla, con grosse crisi oppositive, aggressive, certo. E che ha difficoltà a esprimersi, fino appunto a persone che si possono anche laureare con un altissimo quoziente intellettivo. I problemi sono, da una parte, quello intellettivo proprio, quello della relazione. Il protagonista di Rain Man non gestisce la relazione con gli altri, certo. Però ha delle facoltà intellettive anche superiori alla media di capacità matematica. Senti, il 2 aprile è stata la giornata mondiale dell'autismo. Intanto volevo chiederti se secondo te servono questi eventi e più in generale che cosa serve affinché la parte del mondo che non ha piena coscienza diretta del problema in qualche modo si prenda cura del problema. Beh, sai, queste grandi ricorrenze sono come le sagre paesane, servono perché ci si rivede tutti assieme e ci si ricorda che esiste un santo protettore, però proprio in realtà il giorno dopo la vita ricomincia per tutti. Diciamo serve perché almeno i media, che normalmente hanno tantissime cose da raccontare, cominciano a raccontare almeno una volta l'anno che esiste anche questa realtà, che è una realtà grossa, una realtà importante, è la prima ragione di disabilità nei ragazzi. Tu pensa che ormai ne nasce uno ogni 80 bambini con problemi comunque dello spettro autistico, certo. Quindi comincia a essere qualcosa, un problema che riguarda un po' tutta l'umanità, non soltanto noi autistici. Certo, tu stai girando un documentario sugli autistici, no? Sto girando, io ho scritto due libri, sì. Facendo un grande sforzo su di me, perché di solito ho sempre raccontato il mondo, gli altri, certo. Però ho deciso che era importante mettere il mio mestiere al servizio di un problema grosso che vedevo, e ho cominciato a fare il giornalista dell'autismo. Ho scritto due libri, ho scritto vari pezzi, e penso che il passo successivo sia fare un bel film. Sto cominciando a girare l'Italia, a conoscere le famiglie che nessuno racconta. Gli autistici sono indicibili perché nessuno li racconta, nessuno li vuole raccontare, e i primi che potrebbero raccontarli sono proprio i genitori di cui tu stai parlando. Certo. Oggi molte volte hanno un grosso problema proprio culturale, di vergogna. Ancora tutto ciò che riguarda la malattia psichica, il matto in famiglia, corrisponde a una sorta di avvelenamento del sangue, della stirpe. E quindi sto cercando di far capire alle persone che uno deve andare orgoglioso di quello che ha, potrebbe essere anche il pride degli autistici, che in fondo ce li hai, che ne fai, devi, tanto vale farli vedere. Senti Gianluca, cos'è un TEP autistico? Il TEP autistico è un termine che ho inventato io, mi sono provocato l'ira della maggior parte delle famiglie. Allora, TEP autistico è una crasi fra teppista e autistico. Un giorno gli educatori di mio figlio e di un altro ragazzo coetaneo, hanno 18 anni, li portarono in birreria e fecero delle foto, e loro con la pinta di birra in mano, con la sigaretta tra le labbra, era spenta naturalmente, che non sono capaci, con delle facce sprezzanti da teppisti. Ho detto viva la faccia, anch'io voglio un figlio teppista, o perlomeno mio figlio ha il diritto di scegliere che se vuole essere teppista. C'è sempre questa idea che l'autista è una sorta di angioletto caduto dal cielo, li trattano ancora come bambini. Mio figlio c'ha la barba, i baffi, guarda le ragazze e gli si illuminano gli occhi. Viva la faccia, potesse essere anche un po' teppista, sarei felice e orgoglioso per lui. Senti, l'ultima domanda, che credo sia, come dire, in qualche modo il tema delicato, quando un giorno, tutti ci auguriamo tra 100 anni, ma l'ombra si divide in due. Che ne sarà di lui quando io non ci sarò più? È il problema grosso. Io amo sdrammatizzare e ridere su tutto e scherzare su tutto. Io ho 61 anni, mio figlio ne ha 18, è immancabile, è un ragazzo di salute che mi sopravvivrà. Io sento dire alla maggior parte dei genitori una frase che non voglio sentire dire, quando sarà il momento mi seguirà, lo voglio portare con me. No, io finché sono vivo, finché non sono cotto di cervello, che accadrà anche questo probabilmente col passare degli anni, voglio pensare, immaginare, sperare, inventarmi qualcosa perché abbia una vita dignitosa. In questo momento ti dico, e me ne prendo tutte le responsabilità, in Italia non c'è una soluzione alternativa alla dignità di vita, alla felicità di vita che noi famiglie riusciamo a dare ai nostri figli con grandi sacrifici. Dobbiamo costruirla. Gianluca, ti ringrazio, sei stato preziosissimo. Sai, conosco la materia, grazie a te, ti abbraccio. Ciao Gianluca, grazie. E come abbiamo detto adesso con Gianluca Nicoletti, insomma, il momento più delicato da ipotizzare è quello nel quale il figlio, inevitabilmente, come natura vuole, dovrà restare solo, senza il padre. È un dubbio terribile che Barry Morrow, lo sceneggiatore, esprime molto bene. The greatest fear that any parent... La più grande paura di un genitore di un bambino con disabilità è quella di morire prima del figlio. Ma allo stesso tempo nessun genitore vorrebbe che il proprio figlio muoia prima di lui. E quindi questo è il vero dilemma. E cosa ci puoi fare? What do you do? E questa è la spina più terribile da portare, una realtà tremenda che distrugge la vita della maggior parte dei genitori e di persone non solo autistiche, di persone disabili. Nel caso di Kim, il destino vuole che il figlio muoia prima del padre, perché Kim muore di attacco cardiaco a 58 anni nel 2009 e il padre, Fran, rimasto solo, si spegne 5 anni dopo. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare il colpo d'ala e storie di persone che hanno saputo volare in due, come questo padre e questo figlio, uno indispensabile all'altro. Hanno fatto cose insieme che hanno lasciato un segno e che probabilmente sono state anche utili ad altri che hanno avuto delle ali apparentemente spezzate come loro, ma invece ali che hanno saputo volare molto in alto. E ognuno di noi nella sua vita verso quelle vette ci può arrivare almeno una volta, oppure cadere e risalire, come il falco e come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi nei miei social, Twitter, Facebook, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì.